Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Stimare le precipitazioni a partire da fotografie e immagini scattate da dispositivi virtualmente di ogni tipo, purché digitali. Buonasera da Maurizio Melis. Il caso di cui parliamo stasera è chiaramente inseribile in un trend sempre più forte. Quello che vedi è lo sviluppo di metodologie per estrarre informazioni dall'enorme numero di immagini e filmati digitali oggi disponibili in rete, per esempio, ma anche nei circuiti di telecamere di sorveglianza, eccetera, eccetera. E allora andiamo all'I3P, l'incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino, per incontrare Paola Allamano, amministratrice delegata e cofondatrice di Waterview, startup che, come appunto vi ho anticipato, ha messo a punto una tecnologia per stimare l'intensità della pioggia a partire da semplici fotografie digitali. Buonasera Allamano. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, senta, per prima cosa le chiedo di spiegarci come si fa, come fate da una fotografia a fare una stima del livello di precipitazioni. Istantanee, diciamo. Certamente, è relativamente semplice stimare la quantità di precipitazione all'interno di un'immagine scattata. Lo si fa conoscendo le informazioni relative allo scatto, quindi il metadato che accompagna qualsiasi fotografia, per intenderci il tempo di esposizione, la focale, la dimensione del sensore con cui è stata scattata la fotografia. E anche il diaframma, quanto è aperto e chiuso, che è importante. Esatto, queste informazioni qua, con le quali si riesce a quantificare la dimensione del volume messo a fuoco, all'interno del quale sono presenti le tracce lasciate dalle gocce che cadono di fronte a chi effettua la registrazione. Perfetto, quindi da questi dati voi sapete qual è il volume di spazio ripreso dalla telecamera, macchina fotografica, messo a fuoco, e quindi si vedono le famose strisciate delle gocce lasciate nelle fotografie. Quelle messe a fuoco lasciano questa striscia, no? Sì, lasciano questa striscia che è sostanzialmente una misura dello spazio percorso dalla goccia nell'unità di tempo. Perfetto. Nel tempo di esposizione dell'immagine. Ecco, e quindi voi contate queste strisciate e le loro dimensioni, è così che fate? Contiamo le strisciate, le loro dimensioni, le correggiamo per la sfocatura che è caratteristica degli oggetti che si allontanano dal piano di messa a fuoco, e integrando queste informazioni all'interno del volume, che è un volume tipicamente di un paio, due o tre metri cubi, sì, quindi un volume abbastanza ingente, arriviamo a definire una misura istantanea di intensità di precipitazione, quindi i millimetri che cadono in termini di acqua all'interno dell'unità di tempo. Che stanno cadendo in quel preciso istante in cui viene ripresa l'immagine. Ecco, a proposito, che immagini pensate di utilizzare, si possono utilizzare? Virtualmente abbiamo detto tutte, ma quali sono quelle più utili? Ok, siamo partiti dalle immagini acquisite da telecamere dedicate alla tecnologia, quindi piccole telecamerine che utilizziamo per misurare la precipitazione. Stiamo lavorando per portare la tecnologia, quindi l'algoritmo di processamento delle immagini, su tutte le telecamere digitali, come lei accennava prima, esistenti sul territorio, quindi le miriadi di telecamere, certo, che incontriamo nel tessuto urbano tutti i giorni, e stiamo lavorando per la sfida più grande, che è quella di portare la tecnologia sui dispositivi cellulari, quindi, certo, sugli smartphone, che scattano un'enorme mole di dati, immagini ogni giorno, che condividiamo sui social, che mettiamo dappertutto, perfetto, e che possono servire per misurare invece la pioggia istantanea che stiamo vivendo. Un po' dappertutto, e quindi diciamo con un campionamento molto diffuso, perché poi la pioggia può variare molto anche a un chilometro o due di distanza, soprattutto durante i temporali e cose di questo genere. Senta, ecco, chi prevedete poi possa essere interessato a questi dati? Siamo partiti dall'idea dell'utente urbano, quindi dalla pubblica amministrazione, alla protezione civile, fino ad arrivare al cittadino, che appunto, come dice lei, fa esperienza di eventi molto concentrati, molto sporadici, che qua ci sono, qua e là non ci sono, e quindi che ha necessità di utilizzare dati estremamente diffusi sul territorio. Quindi per programmare magari la partita di calcio, di calcetto, piuttosto che una questione, esatto, di trasporti, piuttosto che la protezione civile. E poi? Esatto. Per arrivare all'agricoltore, che può essere un agricoltore che si ispira ad un'agricoltura più consapevole, più giudiziosa, e che quindi, conoscendo in maniera diffusa le precipitazioni sui suoi campi, certo, tarare le pratiche di irrigazione, l'erogazione di pesticidi e pratiche appunto di questo genere, quindi che portano con sé una conoscenza molto diffusa dello storico di precipitazioni avvenute sul proprio territorio. Senta, a che punto siete dello sviluppo della vostra idea imprenditoriale? Che mi sembra buono, peraltro. Sì, siamo, come si dice, a metà del guado, quindi siamo siamo una startup che ha avuto la fortuna di partire, di ricevere un bel finanziamento proprio recente da parte del club degli investitori, circa 500.000, per portare a termine lo sviluppo dei nostri prodotti e servizi e per poter andare finalmente sul mercato. Prevediamo una fase di commercializzazione che abbia inizio tra circa 6 mesi. Ecco, quello che state facendo adesso è soprattutto questo, diciamo, la tecnologia è sviluppata, no? Esatto, la tecnologia, il cuore della tecnologia è sviluppata, tra di declinarla a seconda del mercato che uno vuole approcciare, quindi stiamo proprio lavorando a questo, quindi a portare la tecnologia su diversi dispositivi e a declinarla, quindi caratterizzarla a seconda dell'utente finale. Grazie, grazie Paola Alamano, avanti così allora. Grazie molte, arrivederci e grazie. Bene, anche per questa sera è tutto, appuntamento come sempre a domani.